la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori Radio 24, sono le 16.37 primi qui dagli studi di Milano in diretta, grazie a voi e ai messaggi e alle proposte che continuano ad arrivare, ma mandatene altre alla versione di Oscar @radio24.it. Beh, oggi è obbligato, come ovvio, e sarà un esame che continua anche poi dopo con Sebastiano Barisoni, è cominciato stamattina con Alino Milan, con tutte le trasmissioni di Radio 24, ovviamente noi ci dobbiamo occupare del varo della legge di stabilità ieri sera, un varo senza testi, come ormai nella migliore tradizione italiana, solo adesso inizia a circolare da un paio d'ore una bozza che non è quella ufficiale, le slide sono arrivate ieri sera alle 10:30. In sintesi, io vi chiedo, da quello che avete capito, comunque telefonateci all'800240024 per dirci che impressione avete. Io oggi ho chiamato una persona di cui mi fido molto, non è detto che siamo sempre d'accordo, ma questo è il bello, perché lui è, da anni sostiene una tesi che è una tesi che ha un suo fondamento, della quale io non sono mai stato molto convinto. Lui ha sempre detto in questi anni, cari amici liberisti del Piffero, state attenti perché a dire tagli di spesa in questi anni si creano delle conseguenze recessive. Allora, detto questo però, vi dico in 30 secondi alcune delle cose che non mi convincono. Quella che mi convince di più è il taglio dell'IRAP, questo non c'è dubbio, tutta la componente lavoro dell'IRAP, quei 6 miliardi sono una cosa molto intensa, la vera scommessa è con le imprese italiane, se in base a quello ripartono. Non basta secondo me, perché ovviamente per ripartire quei margini ricostituiti perché diventino investimenti e occupati hanno bisogno di un mercato che tiri un po' di più all'interno e anche nella componente estera che oggi è raffreddata. Però detto questo, molte altre cose a me convincono molto meno, a dirvi la verità. Quando si dice i 18 miliardi di sgravi fiscali, la più grande sgravo fiscale della storia, primo, non si defalcano tutti gli aggravi di entrata, e di aggravi di entrata ce ne sono, e come? C'è una vera e propria stangata sul, per esempio, sul risparmio e sulla previdenza integrativa, che io non riesco a vedere coerente con la condizione di buco dell'INPS, perché l'aliquota sale per i fondi complementari dall'11,5% al 20% e sale dal 20 al 26% per le casse previdenziali e professionali. Sulla cosa del TFR, anche, che è una cosa su cui il governo punta molto, io voglio vedere, perché abbiamo appreso stamattina che il TFR per chi vuole, dei dipendenti privati, non quelli pubblici come vi dicevamo, chiederlo in busta paga, beh, fa aliquota marginale, cioè soggetto a sommarsi all'IRPEF, e quindi non è soggetto a un'aliquota agevolata al 23% come aveva detto il governo. In più, contemporaneamente aumentano anche l'aliquota di tassazione, se uno lo ritira e lo tiene là, e l'aumentano dall'11,5% anno come era oggi al 17%, quindi ci rimettete comunque, sia che voi decidiate di mettervelo in tasca, sia che non decidiate di mettervelo in tasca. Quanto poi ai 16 miliardi di tagli, vi dirò che io fin da ieri sera, se volete trovate conferma sul Messaggero, Mattino e Gazzettino, non mi convincevano per niente i 6 miliardi addossati a regioni, comuni e province. In effetti stamattina è esplosa la reazione delle regioni, che dicono, ma come, è il governo che ci ha detto a luglio che ci aumentava di 7 miliardi e mezzo il Fondo Sanitario Nazionale 2014, 2015, 2016, adesso ce ne chiede 4 solo per il 2015, il governo è in contraddizione con se stesso. Qualche minuto fa il Presidente del Consiglio ha twittato molto duramente in risposta ai presidenti di regione, come Chiamparino, che coordina i presidenti di regione oggi, e che avevano preso una posizione molto dura stamattina, e il Presidente del Consiglio altrettanto duramente risponde loro: per favore, è una manovra di 36 miliardi e non vi mettete a dire che non potete tagliare. Ci sono tante cose che mi convincono poi meno nei particolari, a dirvi la verità, cioè non capisco perché tutti tirano la cinghia e diamo 100 milioni in più all'Agenzia delle Entrate o 140 milioni ai forestali calabresi. Da una parte si dice che vogliamo i contratti di secondo livello di produttività e dall'altra in legge di stabilità, nella bozza che gira, c'è un taglio di 200 milioni al fondo che serve per incentivare la decontribuzione, cioè per spingere tutti a fare contratti di secondo livello. Poi certo ci sono anche cose positive, ci sono 150 milioni in meno per i patronati sindacali. Ma insomma, qui c'è una scommessa all'Europa, perché la manovra ha 11 miliardi in deficit di copertura. C'ha 3,4 miliardi di incassi da lotta alle l'evasione fiscale, che sono considerati poste ex ante a copertura della spesa. Non si è mai visto. Quando lo faceva Berlusconi, giustamente gli andavamo addosso e glielo abbiamo praticamente sempre impedito, e questa volta invece avviene così. È una scommessa con l'Europa, perché il criterio di non fare tagli al deficit aggiuntivo, e per questo oggi ho chiamato l'ospite, è un criterio che non sta fino a questo momento nelle regole interpretative del patto di stabilità europeo. Quindi c'è un fronte lì, c'è un altro fronte su come stanno in piedi queste cose buone con l'IRAP, con entrate in più che secondo me sono un po' sbagliate, a dire la verità, e c'è un grande interrogativo su come poi risponderà davvero la struttura produttiva italiana. L'ospite, ho finito di parlare io, d'ora in poi parla solo lui, è Mario Seminerio, con noi economista. È stato portfolio manager per società di gestione italiana e internazionale, oggi fa il portfolio advisor, e come ogni volta, e qui lo ricordo sempre, seguite tutti i giorni il suo blog politico-economico fastidio.net, phastidio.net, perché trovate delle zaffate, delle colpi ruvidi, ma forse nello stile, nelle critiche esplicite, ma sempre fondate, secondo me, su numeri e coerenza. Ricordarsi le parole pronunciate da politici, finanzieri, imprenditori un tempo rispetto a quello che fanno davvero. Grazie e buon pomeriggio a Mario Seminerio di essere con noi. Grazie Oscar, buon pomeriggio a tutti. Mario, tu che dici come giudizio generale? Ma guarda, tu hai già, direi che hai fatto un quadro assolutamente impeccabile che io sottoscrivo in toto, non è che ho moltissimo da aggiungere. No, però io ti volevo chiedere all'inizio, te questa roba degli 11 miliardi in deficit credo non ti dovrebbe dispiacere. No, non mi dispiace, ecco. Infatti non mi dispiace, l'ho scritto, l'ho twittato, l'ho detto in vari modi, credo che questa sia una misura così mediamente razionale, nel senso che ad esempio il deficit PIL strutturale, che aveva chiuso il 2013 allo 0,7%, viene mandato allo 0,9% nel 2015, quindi questa è una misura, è una stance di politica fiscale moderatamente espansiva. Quanto all'allargamento, diciamo, dal 2,2 programmatico al 2,9 del deficit PIL, mi pare una logica conseguenza del tentativo di creare, almeno sulla carta, uno stimolo senza fare, diciamo, un eccesso di spesa, quindi mantenendosi entro determinati limiti, parametri e fetici europei. Il problema è che conta molto la cosiddetta execution, no? E mi pare che da quello che ho letto questa execution sia abbastanza problematica, ecco, per usare termini assolutamente asettici per quanto critici, perché come hai detto tu, diciamo, allora, a parte la cosa che mi sconcerta, no, questa sorta di utilizzare come copertura la lotta all'evasione fiscale, questo sinceramente, appunto, l'avessero fatto altri governi, uno nello specifico, probabilmente certo, sarebbero stati impiccati nella pubblica via e le bambole con la loro immagine sarebbero state confitte durante riti voodoo, per cui credo che questa cosa sia abbastanza, cioè non credo che basti andare in televisione, rimboccarsi la camicia con le maniche, rimboccarsi le maniche della camicia bianca e dire incroceremo le banche dati, così alla fine sono un po' degli slogan, e questo è un punto. Ma l'altro punto che mi sembra veramente una sorta di filo conduttore della filosofia di fondo di questo esecutivo, e che sinceramente trovo raggelante, per non usare altri termini, è questa sorta di caccia al risparmio, no? Sta diventando, il risparmiatore sta diventando una sorta di soggetto asociale che bisogna combattere con tutti i mezzi. Perché dico una frase così pesante, di cui ovviamente mi assumo la responsabilità? Perché è nei fatti, no? Cioè, voglio dire, quando degli 80 euro che non hanno prodotto l'impulso espansivo sperato, si è detto perché gli italiani non intendono consumare, bisogna indurli a consumare. Poi abbiamo letto interviste in cui si diceva gli italiani devono assolutamente consumare. Ragazzi, se qui la gente è preoccupata per il lavoro, per la propria vita, e crea una situazione di risparmio precauzionale, non è che voi potete andare a prenderli facendo rastrellamenti casa per casa e costringerli a spendere e a consumare. E poi veniamo al discorso del risparmio previdenziale o del risparmio di lungo periodo in senso lato. Allora, sul TFR abbiamo detto e hai detto, cioè andare in tassazione ordinaria ad aliquota marginale in busta paga è un'amabile presa in giro, perché richiederanno quelle erogazioni i soggetti, non certo quelli che si vogliono comprare l'iPhone 6, presumo, certo, ma certo, quelli che sono più vincolati di liquidità, cioè certo, detto in maniera brutale, quelli che hanno bisogno, sì, no, per pagare di tutto, dalle bollette ai conti di casa, e glieli tassiamo ad aliquota marginale. Ora, lasciamo stare tutta la triangolazione con le banche, per cui le banche devono fungere... Che bisognerà vedere, infatti. Bisogna vedere, perché a mio modo di vedere c'è il rischio che l'Unione Europea consideri questa una contingent liability e quindi faccia innalzare il debito pubblico italiano di misura pari al garantito. Eh sì, perché ricordiamo che lo Stato mette la propria garanzia su un fondo di garanzia che sarà acceso all'INPS, però essendoci la garanzia di Stato l'Unione Europea starà col faro acceso. Sono d'accordo con Mario Seminario. Aspetta che io ti interrompo solo per dirti, perché arrivano delle domande. Alcuni chiedono: ma come Repubblica stamattina diceva che l'aumento del fondo di pensione complementare è solo dall'11,5 al 12,5%? No, ma non voglio polemizzare con Repubblica. Repubblica ha evidentemente chiuso prima che ci fossero dei testi, perché i testi hanno iniziato a girare solo stamattina. Allora, dai testi che girano stamattina sui fondi di previdenza complementare, la tassazione passa dall'11,5 al 20%. Su alcuni prodotti, tipo per esempio le polizze, no? Che oggi erano le polizze vita, che oggi erano esenti IRPEF per gli eredi, anche quelle finiscono al 26%. E poi le casse previdenziali professionali, che erano sottoposte a un'aliquota del 20%, passano al 26%. Questo è quello che sappiamo approssimativamente, però, perché torno a dire a voi in ascolto, un testo ufficiale non c'è, capite? Noi ci stiamo abituando in questo paese a una cosa singolare con questo governo. Aveva iniziato già prima, ma a me lascia abbastanza senza parole. 60 secondi di informazione stradale, poi torniamo con Mario Seminario di fastidio.net. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati a commentare quanto abbiamo capito fino a questo momento della legge di stabilità con Mario Seminario. Ti ho interrotto quando stavi parlando di questa specie di attacco al risparmio, che pure piace a molti a sinistra, lo confondono con l'attacco alle rendite, dicono che Piketty chiede questo. Com'è la faccenda? Allora, nella slide di ieri sera di presentazione in conferenza stampa c'era dal lato delle entrate questa voce rendite, no? Che includeva i 2,4 miliardi di gettito prodotti dal primo aumento al 26% degli strumenti finanziari privati, che è stato approvato quest'anno, e l'inasprimento di tassazione a carico delle fondazioni bancarie e a carico dei fondi pensione complementari. Ora, se io posso esprimere la mia opinione di cittadino italiano, di contribuente italiano non evasore, di elettore, di soggetto che gode della pienezza dei suoi diritti civili e politici, io sono sinceramente scandalizzato dal vedere il Presidente del Consiglio del mio paese che indica come rendita, che bolla di rendita, il risparmio previdenziale. Questa è una cosa sinceramente indegna, è molto furba. È un tentativo di confondere le acque e di gettare fumo negli occhi, etichettando, come dici tu, in una maniera assolutamente perversa, culturalmente perversa, il risparmio in tutte le sue varie forme come rendita, in maniera tale da gettare fumo negli occhi e di raggiungere determinati altri obiettivi. Quindi già l'aumento della tassazione al 20% dall'11% che era lo scorso anno del risultato di gestione dei fondi pensione complementari è una cosa che semplicemente sega il nostro futuro, cioè sega il ramo su cui siamo seduti. E questa è una cosa, io suggerirei, diciamo, a chi ha avuto l'idea di una tassazione di questo tipo, di prendersi un bel testo di matematica finanziaria corso base e di guardare il concetto di capitalizzazione composta. Questo è fondamentale, magari si riesce anche a capire che di tutto quello che noi stiamo segando oggi, cumulato per n anni, non ci rimarrà assolutamente nulla nel futuro. Per cui questo tu è lo sai che lo stimolo sta il proprio futuro. Tu lo sai che faccio la parte a questo punto di quello che ti deve fare solo le domande e non devi dire che sono d'accordo, ma lo sai che il motivo che induce a sommare interventi come quello del bonus 80 euro confermato, di questa tassazione più forte sul risparmio e sugli accantonamenti previdenziali è quello di incentivare i consumi. Questo è il motivo che li unisce come giustificazione. Che dici? Certo, però allora dobbiamo decidere che cosa fare da grandi, perché non possiamo avere burro, cannoni e cannoli. Nel senso, mi spiego. Noi dobbiamo incentivare i consumi, però contemporaneamente dobbiamo spingere gli investimenti. Ora pare, secondo uno dei tanti arcani dell'economia, che gli investimenti si formino dal risparmio. il risparmio è reddito non consumato, per cui tu capisci che la cosa non quadra completamente, perché se noi contemporaneamente vogliamo gli investimenti, vogliamo indurre i fondi pensione a investire nelle infrastrutture innovative oppure old fashion di questo paese, magari ci viene in mente in qualche convegno pubblico di incentivarli fiscalmente, e dopodiché ammazziamo il risultato di esercizio anno per anno, segando la performance futura, tu capisci che la cosa non quadra, perché sì. Contemporaneamente tu mi dici, tu devi consumare qui e ora, però dobbiamo anche fare investimenti, e io obietto e opino, sì, ma se devo fare investimenti devo risparmiare, altrimenti il risparmio non si trasforma in investimento, per definizione è un'identità contabile, eppure che cosa mi viene detto? Che le due cose possono quadrare. Noi vogliamo tutto il contrario di tutto. Io credo che al netto della propaganda forse converrebbe che qualcuno, visto che mi pare che questo esecutivo sia robustamente dotato di economisti a vario ordine e grado, io che economista non sono, diciamo, mi permetto di fare una constatazione molto banale di questo tipo, economista non sono perché, come forse ricorderai, mi è stato fatto l'esame del sangue da alcuni tuoi ex compagni di strada, però non vorrei eccedere, diciamo, nella mia indignazione, perché non riguarda questo anno. Ma sai, quelli sono i titolari di cattedra, bisogna avere compassione. I titolari di cattedra su cui si issano, però intanto rischiano di caderne. Il problema è questo, ripeto, voi non potete distruggere uno dei motori di accumulazione del risparmio che a sua volta sfocia in investimento. E poi meravigliarvi se attendere questo paese è completamente desertificato e depauperato di capitale, non solo umano ma anche finanziario. Senti, ma sulla scelta di fondo, quella che a me convince più, quella dell'IRAP, tu che pensi? Allora, poiché so che alcuni mi accusano di essere pregiudizialmente contrario e di oppormi a questo governo, qualunque cosa questo governo faccia, per confutare questa tesi assolutamente bislacca dirò che io sono assolutamente favorevole e molto soddisfatto della misura sull'IRAP che il governo ha approvato ieri. Aggiungo che questa è una misura che in questa consistenza andava adottata da almeno 4 anni, però come tu sai abbiamo perso alcuni anni a parlare delle virtù taumaturgiche, antisettiche, antiforfora del taglio sull'IMU della prima casa, poi siamo qui a parlare ovviamente di in un momento in cui abbiamo la TASI che determinerà un aggravio aggiuntivo, e questo lo si vede già a occhio nudo, e pertanto non ho alcun problema a dire che questa è una buona cosa. Allora io devo ringraziarti, continuate su Radio 24, tanto la legge ne parleremo per giorni, intanto appuntamento con me a domani. Stasera sono a Virus su Rai 2, se vi interessa. A domani.